Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Consapevolezza. Impariamo a volerci bene qui su Radio Big World. Io sono Elisa Pasquini e nella scorsa puntata avevo iniziato a parlarvi di cristalli. Oggi continueremo a parlare di cristalli, ma prima di entrare nel vivo della puntata, come sempre, voglio leggervi una citazione estratta da un libro. Ogni tanto afferriamo con la mano un oggetto casualmente trovato e lo rigiriamo dinanzi agli occhi, forse un cristallo di rocca o un guscio rotto di chiocciola in cui si sorprende la struttura interna a scala, una punta di stalattite dal pallore lunare, giunta qui dalle grotte sconosciute, in cui il pipistrello traccia i suoi cerchi silenziosi. Questa è la terra d'origine dei musicali capricci, degli scherzi notturni che lo spirito, senza con la commozione, non senza pericolo, si gode come in una loggia solitaria. Ma ci sono anche pezzi rotondi di granito, molati e lavorati nella marmite glaciale, e si trovano nei punti in cui ci si affaccia un panorama più ampio, laddove il mondo appare un po' più piccolo, ma anche un po' più chiaro e regolare, come su nitide e precise carte geografiche, poiché l'ordine supremo si nasconde nel molteplice, come in un rebus. Sono enigmi sorprendenti. Quanto più cresce la distanza, tanto più ci avviciniamo alla soluzione. Nel punto estremo all'infinito, l'afferriamo, la cava di Gaia. Bene, torniamo a noi. Allora, nella prima puntata vi avevo dato una panoramica generale su come funzionano le pietre e su come si usano. Adesso entriamo un po' più nel vivo. Quindi, facciamo un breve riepilogo. Sui vari chakra vanno le pietre di alcuni colori che vi avevo già descritto, ma è possibile anche fare un trattamento con solo cristalli di rocca. Il cristallo di rocca purifica tutti i chakra e, ma non, essendo trasparente, non contenendo colori, lavora anche per quel chakra specifico perché in sé contiene tutti i colori, come vi ho detto. Quindi entriamo nel vivo. Primo chakra avevamo detto colore rosso o colore nero. Quindi a che cosa serve radicamente a terra? E va messo all'incirca all'altezza del pube. Quindi per persone, come vi dicevo, senza radicamento, che hanno bisogno di stare coi piedi per terra, per lavorare sull'intestino, sul sangue, sulle emorroidi, sulle vene varicose, per lavorare sulla parte quindi anche dell'ano, per lavorare anche sulla parte della madre. Quindi legami con la parte materna. E di solito si usa all'inizio un diaspro rosso, lavora tantissimo anche per la carenza di ferro, per la stanchezza cronica, per il sangue, per i traumi, abusi e problemi di nutrimento come la bulimia e l'anoressia. E possiamo mettere sempre sul primo chakra anche un rubino o un granato nero. Secondo chakra, lavora invece per quanto riguarda la parte dell'acqua. Di solito si mette una corniola arancio, riguarda le emozioni da esprimere, che uno non riesce appunto a esprimere, o nel caso in cui le emozioni ci sopraffanno. Lavora sulle ovaie, sui reni, sull'utero, sulla sessualità, quindi sia sulle persessualità che su problemi di frigidezza. Si può mettere anche la pietra di luna, che lavora tantissimo per la parte dei problemi con la madre, sull'inconscio, sui sogni, una perla. E tutto questo va anche a lavorare su come noi esprimiamo il nostro istinto materno. E lavora anche sull'inconscio e sulla creatività. Terzo chakra del fuoco. Di solito si mette una calcita gialla. Attenzione, la calcite gialla non va mai purificata nel sale, ma per questa va comprata una drusa di ametista e va purificata sulla drusa d'ametista. Ricordatevi quello che vi avevo detto nella prima puntata, quindi come e quanto purificare i cristalli. Su che cosa si lavora sul terzo chakra? Sulla milza, sul fegato, sulla colonna. Quindi, su questa parte qua. Poi si può usare anche un quarzo citrino, e un'ambra. Il terzo chakra riguarda l'eccesso di potere, l'arroganza, ma anche persone che si lasciano schiacciare dagli altri e si fanno manipolare, o persone che hanno perso la voglia e la volontà di vivere e di lavorare su loro stessi. Quarto chakra, chakra del cuore. Ricordatevi che su questo avevamo deciso di mettere due cristalli, quindi verde, parte maschile del cuore, quindi i bisogni e le considerazioni personali, e anche il fatto che noi non riusciamo a considerare proprio i nostri bisogni, i nostri desideri, la nostra voglia di vivere. Rosa, parte femminile del cuore, quindi prendersi cura di sé e degli altri. Quindi il verde ci permette di tirare fuori la nostra parte maschile, da amare noi stessi. Il quarzo rosa invece è la cura e l'attenzione, quindi l'amore incondizionato verso se stessi e verso gli altri. Bisogna quindi ascoltarci e dare amore a noi stessi e agli altri. E quindi però non essere solo una spugna che assorbe i problemi degli altri e dà amore solo per gli altri. E su il quarto chakra si lavora anche sui bronchi, i polmoni, il timo, la colonna vertebrale. E entrambe le pietre bilanciano, quindi si può usare anche per il verde un'avventurina, lo smeraldo, una malachite, la fluorite verde o l'ametista verde. E si lavora anche con queste pietre per ferite, delusioni, lutti, se non si riesce a liberare un evento e per sofferenze che ci portiamo dietro a livello karmico. Quinto chakra blu, quindi colore blu, solladite, calcedonio, quarzo azzurro, blu, lapislazzuli. Si lavora sul collo, sulla gola, sul nostro modo di comunicare, sulla tiroide, sulle tonsille, sulla cervicale, dove si accumulano pesi e preoccupazioni forti, sulla parte bassa dei bronchi e dei denti, sulla lingua, anche sull'ascolto, sulla creatività. Sesto chakra, viola, ametista, quindi intuizione, è quello che ci permette di farci vedere oltre. Si può mettere anche una fiorite viola. Si lavora anche sull'ipofisi e l'epifisi, sul cervello, sul testo, quindi su quello che non riusciamo a leggere, quindi in generale sulla testa, l'emicrania, le infiammazioni, la cute, i capelli, sulla parte più intuitiva che non rifiutiamo di accettare, se siamo persone troppo razionali, oppure se siamo eccessivamente aperte, e facciamo entrare troppe intuizioni. Cerchiamo di dare valore alle intuizioni che riceviamo, quindi di fare entrare solo quelle giuste e nel caso invece fossimo chiusi di iniziare a farle entrare. Si lavora anche sul mal di testa, sul sonno, sulla concentrazione, sull'otiti, sulla sinusite, sull'equilibrio e basta. Settimo chakra, cristallo di rocca. Quindi è il collegamento con la nostra parte divina, la spiritualità, le persone, che si vantano di tutto e non sanno che cosa hanno, e si lamentano, oppure si vantano proprio di quello che sono e di quello che fanno su questa terra. E quindi non hanno aperto un canale verso la parte più spirituale di noi. Quindi testa, si lavora sulla testa, sul contatto su quello che realmente si è e su quello che realmente abbiamo da fare in questa terra. Anche qui può essere eccessivamente aperto o chiuso il nostro contatto con la parte più spirituale. Allora, si possono usare questi cristalli, come tutti i cristalli di rocca, come vi avevo detto, per un autotrattamento per noi o per gli altri. Vanno fatti almeno 4 trattamenti ogni 7-10 giorni, insomma non di più, Quindi in un mese circa dovete aver fatto i quattro trattamenti col cristallo terapeuta. Si può fare al massimo un trattamento al giorno e deve durare dai 20 ai 30 minuti. Come in una buona consulenza, il consulente che farà con voi questo tipo di cristalloterapia sicuramente dovrà occuparsi di voi chiacchierando e capendo quali sono le vostre problematiche. E direi che per questa puntata è tutto. Ci sentiamo la prossima settimana e andremo avanti a parlare un po' più nello specifico di altre cose dei cristalli. Ma prima di lasciarvi, come sempre, vi voglio lasciare con una definizione di un cristallo, quindi lo zircone, la gemma degli innamorati, rende indivisibili i legami di amore, aiuta ad amare se stessi e gli altri, a far emergere gli aspetti positivi interiori di chi lo porta. Utile in caso di depressione, nelle difficoltà, questa pietra permette di osservare i problemi in modo ordinato per riuscire a risolverli facilmente. Per questa puntata è tutto, io vi ricordo come sempre i nostri contatti, il nostro sito www.energica-mente.it, la nostra email info@energica-mente.it, i nostri numeri di telefono Francesca 340 23 45 340, Franco 329 8989 669, Elisa 339 3860 123 e visitate anche la nostra pagina Facebook. Vi auguro un buon weekend pieno di caldo e di sole. Spero possiate trovare giovamento da queste giornate di alta calura e ci sentiamo la prossima settimana.